Ed eccoci tornati qui di nuovo, quindi ciao a tutte e tutti. Come avete riconosciuto dalla nostra sigla ormai storica, questa è Uru. Abbiamo sorpassato le 50 puntate da un po'. Quindi vi ricordiamo i social della radio per seguirci meglio, il sito da cui state ascoltando in streaming, wombat.blogs.org, che vi ricordo potete dallo stesso sito ascoltare i podcast di tutte le trasmissioni, non solo di Uru, ma di tutte le trasmissioni della radio. Profilo Twitter, Radio Wombat FI, e vi ricordo che Uru ha anche un proprio profilo Twitter, che è Uru-basso. RW di Radio Wombat. Per comunicare con noi, posta wombat@insiberia.net. Sì, 53esima trasmissione di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano, e 53esima trasmissione incentrata sulla musica jazz. La quarta volta mi sembra, ma è inevitabile perché il jazz è molto, molto diffuso in Africa, anche se ci sono due situazioni, due nazioni, due parti dell'Africa in cui è ancora più diffuso nel resto del continente, e cioè in Etiopia e in Sudafrica. Parte, diciamo, della, non tanto della tradizione, quanto di quello che succede spesso sulla musica africana, cioè dell'innestare strumentazione, strumenti e sonorità più, diciamo, più attuali su quelle erano, quelle sono le radici delle proprie nazioni, di cui sono esponenti i vari autori. Il primo jazzista, ci sentiamo, è Deepak Ram. Sì, Deepak Ram è un flautista sudafricano, compositore, tastierista e produttore di origine indiana. Ricordiamo che gli indiani, ci sono molti di origine indiana in Sudafrica. Per esempio Durban è, mi sembra, innanzitutto è la città dell'emisfero australe con più abitanti di origine indiana, ma soprattutto per capire quanto è lunga, da quanto tempo dura l'immigrazione indiana. Ricordiamo tra l'altro che Durban è proprio sull'oceano indiano, ricordiamo appunto che Gandhi ha iniziato il proprio percorso politico e ha elaborare la sua teoria di lotti colonialisti proprio a Durban. Tra l'altro a Durban è presente anche la più grande comunità indù, l'induismo è la città con più induisti sempre dell'emisfero australe. Sì, dicevo di Deepak Ram, infatti i suoi nonni sono stati portati in Sudafrica per lavorare nelle piantagioni. È nato così in Sudafrica da immigrati di seconda generazione, in piena era apartheid negli anni 60. Pensate che qualche settimana dopo la sua nascita la casa di famiglia è stata rasa al suolo per la legge Gruppo A Arias Act, quello che praticamente impediva a vicini di diverse etnie e razze di abitare nello stesso posto. Infatti tutto il Sudafrica fu diviso a seconda delle etnie e delle razze. Dopo si stabilì a Sophiatown, un'area invece, una delle pochissime che allora era ancora con un mescolio di razze, ancora per poco, purtroppo. Le sue prime influenze furono appunto dischi jazz che ascoltavano i suoi fratelli, e a cui lui ha aggiunto la musica indonesiana e di Bollywood ascoltata invece dai suoi genitori. Pensate che il primo flauto che ha suonato era ricavato da un tubo di scarico di una macchina con 6 fori fatti sui lati a caso. Di lui ci ascoltiamo Garbage and Roti. Thank you. Ci eravamo interessati, avevamo pubblicato un appello 2 o 3 trasmissioni fa, Fride Moria 35, Moria è in campo di detenzione sotto certi aspetti dell'isola di Lesbos, in cui vengono appunto detenuti i migranti che sono, diciamo, approdati a Lesbos per poi successivamente dirigersi verso altri paesi o comunque nell'Unione Europea. E appunto nei giorni scorsi si è tenuto questo processo in cui i 35 migranti, tutti africani provenienti da Congo, Camerun, Mali e Uganda, appunto erano sottoposti a processo nell'isola di Chios, un'isola lì vicino, per tutta una serie di reati per i quali rischiavano la deportazione, cioè il ritrasferimento. In realtà poi appunto le prove, anzi i fatti a loro contestati non esistevano neppure, e quindi il processo che si è tenuto nei giorni scorsi, 35 di Moria, sono stati tutti assolti tranne che per resistenza a pubblico ufficiale, dopo comunque aver scontato 9 mesi di prigionia. Dei 35 appunto assolti, 32 sono stati accusati, sono stati dichiarati colpevoli per resistenza a pubblico ufficiale, dovrebbero scontare 26 mesi senza però alcun rischio di deportazione. Questo era appunto il report post processo, ma successivamente è circolato anche un comunicato in cui comunque sia 7 dei 35 di Moria erano a rischio di deportazione, essendo stati iscritti comunque nelle liste delle persone da deportare, una sorta di vendetta da parte delle autorità, da parte dell'autorità dell'ordine pubblico dell'isola di Lesbos, a cui per il momento però non ci sono notizie se questo rischio di deportazione comunque è stato eseguito, è stata deportazione oppure no. E un'altra notizia invece volevamo darti, è che riguarda appunto una rappresentazione teatrale che è iniziata a essere messa in scena l'inizio di questo aprile a Londra. Appunto il titolo è Thomas Sankara era un femminista, ed è appunto il titolo di un'opera teatrale scritta dall'attrice londinese Shirian Brown, che è stata appunto messa in scena a Londra dall'inizio di aprile. L'attrice stessa sostiene che ha più di 30 anni giustamente dalla morte. Thomas Sankara continua a stupirci ed evidenzia l'attrice, ma anche appunto dà vita nella sua performance, nella sua opera teatrale, l'incredibile modernità dell'ex presidente Burkina Faso, assassinato nel 1987 durante un golpe promosso dalla Francia. Infatti quella del leader burkinabè è stato un percorso segnato dalla lotta per l'integrità della sua gente, ma anche per l'emancipazione della donna. Nel suo libro L'emancipazione delle donne e la liberazione dell'Africa, pubblicato postumo dopo la sua morte dalla Pathfinder Press, sosteneva la necessità di aiutare le donne vittime di marginalizzazione di ogni genere da parte degli uomini. Un essere oppresso troverà un altro essere da opprimere, sua moglie, era solito dire Thomas Sankara. E quindi la lotta contro il sessismo, l'uguaglianza tra uomini e donne davanti alle leggi e nelle istituzioni, e la lotta contro i pregiudizi sessisti sono stati dei pilastri delle politiche, delle leggi, del percorso di Sankara e del suo popolo nel periodo in cui appunto Sankara era al vertice del governo burkinabè. E appunto lui, insieme a tutti gli altri, tutti quelli che promuovevano queste iniziative, sognava di creare un paese che guardasse alla donna come un protagonista, una protagonista dello sviluppo umano ed economico del paese. Tra l'altro va sottolineato appunto il Burkina Faso, così come a molti altri stati dell'Africa, ma come a molti, se non tutti, stati del mondo, segnato da secoli di maschilismo. Ritorniamo alla musica e lo facciamo con un altro artista sudafricano, e cioè con Becky Msekelu, pianista, sassofonista, chitarrista, compositore, arrangiatore interamente autodidatta. Anche suo padre era un musicista e suo padre era insegnante e laureato in musica a Cambridge. Lui ha da appunto autodidatta, ha cominciato a fare musica in Sudafrica e sua madre, praticamente mentre suo padre era assente per l'insegnamento, gli ha fatto scoprire il pianoforte e ha cominciato a suonare. Di lui sentiamo Closer to the Source. Sì, va tenuto presente, durante la sua infanzia Bekim Seleki ha subito la perdita delle articolazioni superiori dell'udito e la mano destra in un incidente di go-kart, ma nonostante ciò ha continuato il suo percorso musicale, tiene presente sto il pianoforte, e ha spiegato durante appunto una sua performance nel 94 che molto spesso, e specialmente durante questa sua performance, molto di quello che lui incassava dai proventi, dai concerti in particolare, ma anche dai dischi, sono stati benefit per l'assistenza sanitaria per i neri sudafricani, che era appunto molto limitata nell'ambito dell'apartheid. Di lui ci sentiamo Closer to the Source. Vi volevamo informare che i due prossimi venerdì non andrà in onda Uru. Il prossimo venerdì, perché c'è 4 giorni di festa, festival letterario sulla letteratura con presentazione di libri, eccetera, alla Polveriera, e Radio Wombat sarà impegnato nel fare la diretta di tutte le cose più importanti che succederanno al festival, quindi naturalmente noi saremo lì al festival a sentire queste presentazioni. Il venerdì successivo invece ci sarà un'iniziativa alla CSA Nestemerson di Via di Bellagio, che a cui noi sicuramente parteciperemo, perché si parla proprio di Africa. Sarà una serata che ha dei momenti particolari. Il primo momento è si parla di Africa nel senso di Sahrawi, che è un popolo in lotta da tantissimo tempo, un po' dimenticato, per cui ci fa piacere anche riparlarne. E la serata sarà con una cena fatta da couscous o spezzatino con 5 euro a piatto, tutte e due, uno dei due, che sarà benefit per una cooperativa di donne sahrawi di Ausserd. E poi dopo la cena ci sarà la presentazione del fumetto Mariem Hassan, Io sono Sahrawi. Se ci seguite da un po' avrete sentito di sicuro questa grandissima artista sahrawi, cantante e lottatrice veramente fino in fondo per i diritti del suo popolo. Quindi questo fumetto praticamente racconta la sua vita, ma raccontando la storia del suo popolo. Sarà presente l'autore Gianluca Diana. Se cercate su Google Gianluca Diana, Mariem Hassan, troverete qualche immagine e la presentazione del fumetto, e vedrete che vale veramente la pena di esserci. Se questo fumetto, appunto, che si intitola Mariem Hassan, Io sono Sahrawi, è una biografia illustrata, come ho detto, una storia a fumetti al femminile che racconta la sua musica e la resistenza invece di tutto un popolo, lungo 6 capitoli divisi in 6 decenni, ognuno con un titolo delle sue canzoni, in cui la vita di Mariem Hassan scorre parallela alla storia del popolo del deserto, l'infanzia nomade, poi l'occupazione marocchina, l'esilio, i campi profughi in Algeria, fino alle prime incisioni ai concerti. Io sono Sahrawi è parlato, scritto e coloratissimo, e riprende appunto i suoni e la voce di Mariem, che è considerata da tutti i sahrawi un riferimento per la lotta di questo popolo. Quindi dopo ci sarà un concerto di musica afro, africana. Sì, un concerto più una dice di sette, chiamiamola così, ecco, nel senso che vengono messi dischi, pezzi musicali in particolar modo afrobeat, quindi una serata all'insegna dell'Africa, in cui Uru sarà, appunto, mi ha detto pochissimo fa, sarà sicuramente presente. Volevo soltanto ricordare che comunque non vanno in onda le prossime due venerdì le dirette di Uru, mentre invece la domenica alle 23 e il lunedì alle 8:30, come sempre, come di consueto, la replica, in questo caso repliche di puntate precedenti. E ritorniamo sempre, appunto, al jazz, alla musica, rimaniamo in Sudafrica, e il prossimo pezzo è un pezzo particolare. Si tratta di uno dei 4 pezzi incisi proprio su vinile, e tra l'altro sono uscito solo su vinile, di questo gruppo sudafricano, si chiamava The Drive, e in cui tra l'altro era presente anche Bekim Seleki, di cui abbiamo ascoltato il pezzo Closer to the Source precedentemente. Dicevamo, in particolare, perché questi 4 pezzi sono stati composti da questa talentuosa band che miscelava funk, jazz, una sorta di fusion, africano, appunto, sono stati composti 2 settimane prima che 2 membri della band, Henry Sithole e Bunny Luthulu, rimanessero uccisi in un incidente di auto. Questi erano 4 pezzi che erano già pronti per l'LP che doveva essere inciso, e quindi la decisione da parte del resto dei componenti della band di comunque farli uscire su vinile, e appunto si intitola questo vinile si intitola appunto In Memory, dedicated to Henry Sithole e Bunny Luthulu. E i fratelli Sithole, di cui uno appunto rimase ucciso in questo incidente di auto, erano il nucleo di un gruppo precedente, si chiamava Eshu Beshu, il nucleo di Ottoni. E poi Luthulu mentre Benny, un altro dei due rimasti coinvolti nell'incidente, aveva suonato gli Almond Jets. E successivamente, oltre nei The Drive, i vari membri avevano formato gli Shaquille e gli Spiriti Rallegrati. Questa è la traduzione di Funny's Spirit. Naturalmente c'era anche appunto da sottolineare la presenza di Bekim Seleku, che appunto cominciava a essere conosciutissimo. E proprio appunto all'apice della folgorante carriera, in cui erano stati già pianificati concerti, oltre che all'incisione del disco, erano stati pianificati concerti fuori dal Sudafrica. La prima volta appunto il gruppo si recava a suonare in Sudafrica, questo incidente sostanzialmente ha sancito la fine del gruppo, di questo gruppo The Drive. Tra l'altro Bunny Luthulu era sposato solo da pochi mesi prima della sua morte, mentre invece Henry Sithole lasciava la moglie e 4 figli. E, oltre a quelli, ai componenti conosciuti dei The Drive, all'LP hanno partecipato diversi altri jazzisti, ma non sono neppure ricordati nelle note di copertina. C'è da dire però che quando la band si formò nel 1971, Duke Masai e Mike Makalemele erano stati i primi membri, così come Sifo Gumede, Japun Kosi e via dicendo. Poi successivamente la band ha avuto, diciamo, come membri membri abbastanza stabili, quindi nonostante appunto non ci siano note di copertina oltre a quelle appunto che evidenziano la presenza di Henry Sithole e Bunny Luthulu, c'erano sicuramente Stanley Sithole, il fratello, al tenore e sax baritono, David Sithole alla tromba, Bunny Luthulu chiaramente alla chitarra, Bekim Seleki, Nelson Magawa alla batteria, percussione e concas, e Tony Sauri al basso. Di questo gruppo vi facciamo sentire un pezzo abbastanza lungo, 8 minuti e mezzo, ma veramente bello, Let's Have a Ball, The Drive. We'll be right back. La prossima una notizia riguarda la Repubblica Democratica del Congo e le contraddizioni della green economy. Per garantirsi il possesso di un minerale strategico, ormai come il cobalto, la China Molybdenum Company ha acquisito il controllo nella Repubblica Democratica del Congo della Tenke Fungurume, un'azienda partecipata da a sua volta aziende di varie nazionalità, e in questo modo la China Molybdenum è diventato il secondo operatore mondiale nell'ambito dell'estrazione del cobalto dopo il gigante svizzero Glencore. C'è da tenere presente che per comprendere la valenza di questa notizia e le conseguenze che potrà avere in Africa, ma in particolare nel Congo, bisogna conoscere alcuni dati. Nel 2017 il prezzo del cobalto è aumentato quasi del 200% rispetto all'anno precedente. Il motivo è che la domanda di questo metallo è cresciuta e sta attualmente crescendo in maniera abnorme. La produzione di batterie, perché appunto il cobalto serve per costruire, per fare le batterie, assorbe già il 42% del cobalto estratto annualmente nel mondo. È un minerale appunto inserito nei circuiti, nelle batterie cellulari, dei tablet, nei computer, nei navigatori, e parte del cobalto estratto va anche a costituire le batterie per le auto elettriche, che oggi nel mondo sono circa poche decine di migliaia, e che comunque secondo alcune stime entro il 2030 saranno circa 530 milioni, e tra l'altro una buona parte di esse saranno prodotte in Cina, dato che questo paese si sta attrezzando per un passaggio al petrolio, alle auto a energia elettrica, e quindi proprio per questo appunto per la China Molybdenum è un'acquisizione strategica. Nel 2017 il Congo ha estratto circa 66.000 tonnellate di cobalto, al secondo posto c'è la Cina, di cobalto ne ha ricavate solo 7.700, quindi proprio neppure circa poco più di un decimo di quello che ne è stato estratto in Congo. E altri paesi africani a cui viene estratto il cobalto, perché chiaramente oltretutto oltre la Cina gli altri stati che hanno giacimenti di cobalto sono in Africa, appunto sono Zambia, Sudafrica, Madagascar, Tanzania e Mozambico, anche se poi ci sono riserve anche in Australia, in Siberia, ma comunque la stragrande maggioranza dell'estrazione del cobalto avviene in Africa. Il problema è che l'estrazione e la lavorazione del cobalto è un processo enormemente nocivo sia per i lavoratori che per l'ambiente. Ecco perché quello della Repubblica Democratica del Congo è un cobalto prezioso rispetto ad altri, dato che viene estratto con un esercito di decine di migliaia di minorenni, bambini in miniere clandestine senza regole e con costo di lavoro infimo. Una produzione sostanzialmente, un'escavazione dietro la quale stanno come al solito le grandi multinazionali, che chiaramente non controllano il territorio, lo fanno controllare ad altri, e in un clima di perenne conflitto con una popolazione alla fame riescono a far sì che queste estrazioni effettuate con lavoratori a nero, sottopagati, con bambini, minorenni e così via, non vengano non vengono scoperte o comunque non vengano sanzionate, sancite. Recentemente il presidente Joseph Kabila ha varato un nuovo codice minerario che aumenta la percentuale del valore dell'estrazione, va allo Stato, cioè le famose royalties, ma molti sospettano, e lo sospettiamo anche noi effettivamente, che si sia trattato uno degli ultimi colpi del presidente prima di essere estromesso, ha portato a casa un accordo miliardario e quindi miliardi per lui. Insomma, tutto si muove, ma chi paga alla fine il prezzo più alto dell'auspicato passaggio dall'economia ai fossili alla green economy, ma poi verde, verde perché insomma, saranno ancora una volta i congolesi e tutti gli altri lavoratori degli altri paesi africani e anche lavoratori degli altri paesi in cui esistono le miniere di cobalto. E ritorniamo alla musica e ci spostiamo in un altro dei paesi che hanno una forte attitudine a jazz, e cioè l'Etiopia. E lo facciamo con Getachew Mekuria, che è nato il 14 marzo del 35 a Ifat, in Etiopia appunto. Ha iniziato i suoi studi musicali con su strumenti musicali etiopi come il krar e il masengo, per poi passare a sassofono e clarinetto. Dopo nell'adolescenza ha iniziato la sua carriera professionale nel 1949 come parte della banda municipale di Addis Abeba. Nel 55 entra a far parte della house band nel teatro Ailes Selassie, primo di Addis, e nel 65 entra a far parte di un'orchestra ancora più conosciuta. Fu uno dei primi musicisti a registrare una versione strumentale di Shellela, un genere di musica vocale etiope tradizionale cantata dai guerriglieri prima di entrare in battaglia. E Mercuria prendeva sul serio questa tradizione della Shellela, tant'è che spesso sul palco suonava con la tunica di pelle di animale da guerriero e il copricapo di criniera di leone. Ha continuato a perfezionare il suo stile, appunto Shellela, e ha registrato un intero album nel 1970, Negus of Ethiopian Sax, pubblicato da Philips Ethiopia durante il periodo d'oro del movimento Ethio Jazz. Mercuria ha continuato poi a collaborare con molte delle più grandi orchestre della capitale etiopica, accompagnando i più famosi cantanti come Alemeyu Eshete, Bekele, Mesfin, eccetera. Di lui ci ascoltiamo Ambassel. se ricordate, un paio di mesi fa avevamo dato la notizia della morte di Drissa Ouedraogo, uno dei grandi registi africani, nel suo caso burkinabè del Burkina Faso, e ci piace quindi dire che i giovani registi del Burkina Faso hanno dichiarato che lavoreranno per mantenere viva la memoria di Drissa. Infatti, prima di morire, il regista burkinabè aveva in mente di realizzare Bukhari Kutu, un film dedicato alla resistenza contro la colonizzazione francese. I giovani cineasti burkinabè vorrebbero portare a termine questo progetto insieme a Gervais Quene, un produttore cinematografico. Speriamo che questa cosa vada in porto e vi faremo sapere se così è stato. Perché sperando che questi giovani registi realizzino appunto Bukhari Kutu e pettino la filosofia del maestro, anche se naturalmente non è un compito semplice perché era un grande regista, anche se naturalmente loro hanno imparato le sue tecniche di produzione cinematografica. Sì, c'è da sottolineare, non a caso Idrissa Dragò era burkinabè, così come tutti questi giovani registi sono burkinabè, così come Burkinabè è il festival più importante, il festival cinematografico più importante dell'Afrique, FESPACO, e questo si collega alla prima notizia che abbiamo dato. Thomas Sankara era un femminista, appunto un soggetto che della cultura antagonista, o comunque della cultura popolare, era fautore, e infatti il FESPACO e la fondazione di una cinematografia burkinabè con laboratori nella capitale a Ouagadougou è appunto iniziata sotto il governo Sankara. E il prossimo esecutore, il prossimo jazzista un po' sempre ha iniziato a incidere in Etiopia, però con la particolarità che era nato in Eritrea e che aveva iniziato a suonare appunto ad Asmara, si è poi trasferito a Addis Abeba in un periodo in cui non c'era la tensione che caratterizza ora i rapporti fra due stati. Tesfamarian, un sassofonista pioniere di quella e protagonista di quella era la musica e la scena l'Ethio Jazz ad Addis Abeba negli anni 60, e era insieme a tutti gli altri, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di questa musica, di questo jazz, di questo Ethio Jazz. Era insieme a tutti gli altri musicisti jazz etiopi, ma anche eritrei, che si erano trasferiti in Etiopia, Tekle Adhanom, Faked Hamdemskel, insomma tutti più conosciuti e anche meno conosciuti che giravano, andavano, supportavano questa scena dell'Ethio Jazz, e quindi suonavano tra di loro, molto spesso suonavano senza neppure incidere. Poi successivamente anche lui ha fondato la sua band, il Roa, composta principalmente da membri eritrei, ma guidata da un chitarrista, Selam Seyogum, che era appunto etiope. Di Tesso Marian Kitane vi facciamo ascoltare Eiwet. Thank you. E che questo era il nostro ultimo pezzo per stasera. E vi ricordiamo che Uru non andrà in onda nei prossimi due venerdì, quindi la settimana prossima, mi raccomando, ascoltate Radio Wombat in diretta dalla Polveriera, che seguirà tutto il Festival della Letteratura, mentre il venerdì successivo vi aspettiamo al CSA Nest Emerson. Ci teniamo perché è una serata che parla di Africa, per la presentazione del fumetto su Maria Massana e poi musica. Vi aspettiamo, ci risentiamo tra tre venerdì. Le repliche naturalmente andranno in onda con le puntate precedenti, che non fa mai male riascoltare. Ciao a tutte e tutti, a presto.